Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi raccontiamo una storia in bilico, siamo su una linea immaginaria, siamo in quel confine sottile che divide la verità dei fatti dalle leggende, dalle credenze popolari, siamo al confine tra leggenda e storia. Il nostro protagonista di oggi ha un nome che è famosissimo in tutto il mondo da secoli, però in pochi sanno veramente qualcosa di lui. Hanno fatto documentari, libri, trasmissioni televisive, però il suo mistero, alimentato da lui stesso e dagli scritti che ci ha lasciato, rimane. Ci sono centinaia di quartine in rima in cui lui racconterebbe, e qua bisogna usare il condizionale, racconterebbe il presente e il futuro dell'umanità. Oggi parliamo di Michel de Nostradamus, meglio conosciuto come Nostradamus. Michel de Nostradamus. He was a respected... Michel de Nostradamus era un rispettato medico francese le cui profezie sul futuro hanno disorientato gli studiosi per oltre 400 anni. Noi esamineremo le sue previsioni sulla rivoluzione francese, sui Kennedy, su Napoleone e su un altro uomo di cui Nostradamus dice che presto causerà una guerra catastrofica nel mondo. Era un impostore, questo Nostradamus? Un ciarlatano? O era un vero profeta, un uomo con un dono, che vede quello che gli altri non possono vedere? Lascerò che giudichiate voi stessi. Eh già, ciarlatano o profeta? Continueremo a chiedercelo per tutta la puntata. Il grande Orson Welles si pone subito e ci pone subito di fronte al problema principale quando si parla di Nostradamus. Lo fa in un film documentario dell'81 intitolato The Man Who Saw Tomorrow, l'uomo che vide il futuro. Nostradamus è ricordato per le sue profezie, molte delle quali per alcuni si sarebbero avverate, però per altri nelle quartine di questo medico francese si può leggere qualsiasi cosa, perché il suo linguaggio era intricato, era allusivo, diceva e non diceva, non si sbilanciava mai fino alla fine. Però cominciamo dall'inizio, torniamo indietro, andiamo al Rinascimento, in uno dei paesi più floridi d'Occidente, cioè la Francia. Il Medioevo è finito da poco e l'uomo sta diventando il centro di tutta la riflessione dell'epoca. La fiducia nelle capacità umane è totale, è la luce che illumina quel tempo dopo secoli di oscurità, di superstizione, di lotte cruente. Il nostro protagonista nasce pochi giorni prima del Natale 1503. Siamo in Francia, in Provenza, nel paesino di Saint-Rémy. Il padre Jacques è un notaio, che è una professione importante in quell'epoca, direi anche oggi con quello che guadagnano. La maggior parte della popolazione è analfabeta, la madre è una ricca possidente, i nonni sono dei sapienti, gente colta che conosce la matematica, la medicina. Infatti è il nonno che si prende l'impegno di educare il piccolo. E alla morte del nonno, quando Michel è un ragazzo, i genitori lo fanno studiare all'università di Avignone, in quella che diciamo oggi sarebbe lettere e filosofia. Michel è uno studente brillante, si fa notare nell'ambiente universitario, è così apprezzato che quando è ancora studente gli viene permesso di insegnare la materia che ama di più, che è l'astronomia. E poi termina gli studi, il padre decide che bisogna lavorare, bisogna dedicarsi ad altro, e la medicina è un mezzo di sostentamento più sicuro dell'astronomia. Anche allora, insomma, c'era il pezzo di carta, quindi Michel va all'università di Montpellier e anche lì le sue capacità, diciamo, non passano inosservate. Jean Hogue, autore del libro Nostradamus and the Antichrist, lo descrive così. Quello che tutti noi pensiamo attraverso la cultura popolare è che Nostradamus ha speso la sua intera vita chiuso nella sua stanza a scrivere profezie. In realtà era un saggio uomo con un grande senso del mondo. Era un bibliotecario, un fisico. Michel è un giovane dotato, è destinato al successo, però vive in anni terribili gli anni della peste che si abbatte improvvisa su tutto il sud della Francia. E lui affronta la situazione con molto coraggio, che parte verso le città più contagiate, fa esperimenti direttamente sul campo, studia i cadaveri delle vittime, cerca di curare i malati. È un'attività che lui svolge per 4 anni, fino a che quel flagello epocale comincia a ridurre la sua portata e i suoi sforzi vengono riconosciuti, il suo nome sulla bocca di tutti, la gente vuol conoscere la persona che è riuscita a salvare migliaia di vite. E quando è finito tutto, Michel torna a Montpellier, termina gli studi, si laurea in medicina e latinizza il suo nome, perché in quei tempi andava così: quando tu ti laureavi potevi latinizzare il tuo nome, e così nasce lo stimato dottore Nostradamus. Lee McCann, in un libro che si chiama proprio Nostradamus, fa parlare così il nostro protagonista. Mentre combattevo la peste, solevo pensare, nei rari momenti in cui mi era concesso pensare, che quando tutto fosse finito mi sarei ritrovato vecchio in un mondo estraneo. Il senso del tempo gioca scherzi tali che pensavo dovesse passare un'eternità prima del mio ritorno. Di quel che accadeva, a parte la peste, avevo scarne notizie, poiché a Montpellier si parlava esclusivamente di scienza. Insomma, il lungo periodo passato nelle zone devastate dall'epidemia porta via gli anni migliori della sua gioventù. Forse per questo in Michel comincia a crescere il desiderio di viaggiare, di fare nuove esperienze, di conoscere il mondo, e da questo momento in poi la sua vita sarà un continuo movimento e risponde a tutte le richieste che gli vengono fatte. Viaggia a Avignone, Marsiglia, conosce aristocratici, gli uomini di chiesa che allora erano il potere, e però conosce anche persone comuni. Insomma, è un curioso, si interessa di tutto, fa tesoro di ogni incontro, sviluppa l'intuito, l'arguzia che faranno di lui uno degli uomini più famosi d'Europa. Il falco e il gabbiano. Quando parliamo di uomini vissuti 100, 200, 400 anni fa, non abbiamo più la percezione di come loro erano vissuti nella loro epoca. Cioè, alcuni dei grandi personaggi erano famosi, altri no. Alcuni erano ricchi, altri no. E noi non sappiamo molte di queste cose. Bene, Nostradamus era uno famoso, grazie al fatto di aver curato i malati di peste, insomma, grazie a tanti componenti, era una persona famosa e lo cercano in molti. Tra le tante lettere che gli arrivano c'è anche quella di un grande uomo di scienza che si chiama Giulio Cesare Scaligero. Scaligero vuole conoscere il medico di cui tutti parlano, invita Michel a soggiornare nella sua casa ad Agen, a nord di Tolosa. Nostradamus accetta l'invito e i due hanno la possibilità di confrontarsi su molti temi, però è un rapporto che è destinato a non durare, perché Scaligero è un arrogante, uno spavaldo, entra in contrasto con il giovane Nostradamus. Probabilmente Scaligero ha chiamato Nostradamus anche, diciamo, per monitorarlo, perché è geloso della fama di Michel e Michel gli sta rubando la scena. A un certo punto lui comincia a cercare di screditarlo, però arriva anche una nota lieta nella vita del nostro protagonista, perché si innamora. Non sappiamo molto di questo incontro, non sappiamo neanche il nome di questa donna. Alcuni documenti la descrivono come una donna di grande bellezza, con i capelli scuri, con gli occhi chiari, una donna di buon carattere. I due si sposano nel 1534 e va a vivere con questa misteriosa moglie, che mi sembra un po' la moglie del tenente Colombo. Non sappiamo molto di lei, però gli anni successivi trascorrono serenamente, forse sono i più felici della sua vita, e da questo matrimonio nascono 2 figli, ma intanto lui continua a viaggiare, svolge la sua professione dove serve, e si rasserena anche il rapporto con Scaligero, ma in realtà questa serenità è una breve tregua, perché presto tornano le gelosie. Insomma, alla fine il rapporto viene troncato definitivamente. Questo è il minore dei problemi, perché mentre Nostradamus è in viaggio viene raggiunto da una lettera. La moglie e i suoi 2 bambini sono stati colpiti da una gravissima malattia, forse dalla peste. Lui rientra a casa il più in fretta possibile e trova la sua famiglia a un passo dalla fine, può solo assisterli sul letto di morte. Uno dei più famosi medici dell'epoca è inerme di fronte al destino della sua donna e dei suoi 2 bambini. Però a questo si aggiungono, diciamo, le male lingue, cioè gli capita una cosa terribile. In paese qualcuno arriva a sostenere che lui abbia organizzato la morte della sua famiglia come vendetta per il presunto tradimento della moglie. E questi, diciamo, rumors sono la goccia che fa traboccare il vaso. Lui cade in una crisi profondissima, parte, si allontana da quei luoghi di dolore. È in questo momento che, secondo lo scrittore inglese Mario Reading, Nostradamus comincia a sviluppare quello che lui ritiene un dono. Il perché Nostradamus sia diventato un profeta penso sia il risultato della sofferenza provata dopo aver perso la sua prima moglie e i suoi bambini. Se ne andò da solo in Italia, in Spagna, in tanti posti, vedendo tante cose. Michel de Nostradamus ha solo 30 anni quando perde la sua famiglia e trascorre i 10 anni successivi viaggiando da solo a dorso di mulo. È un periodo del quale si hanno poche informazioni, anche perché lui non fa vita pubblica, si chiude nel suo dolore. Si sa che viaggia per tutta la Francia meridionale, va in Italia, va in Spagna, incontra molte figure fuori dal circuito tradizionale degli scienziati e comincia a scoprire nuove materie di studio, comincia a scrivere delle profezie e inizialmente sembrano più delle intuizioni che delle predizioni vere e proprie, però questi scritti hanno un riscontro con la realtà o comunque sembrano averne, e questo comincia a spaventare Nostradamus perché lui non sa come interpretare la natura di questi fatti, è molto credente, vuole assicurarsi l'approvazione della Chiesa, non vuole uscire dal seminato, diciamo così, si ritira in un monastero addirittura, parla con un abate di quello che gli sta accadendo, poi si trasferisce di nuovo nella sua Provenza, a Salon, è un luogo sicuro dal quale poter cominciare a esplorare le sue incredibili potenzialità. E qui trova la sua seconda moglie, Anne Ponsard-Jumel, si sposa, nascerà un bambino, César. Evidentemente però lui non è destinato a una vita familiare tranquilla, perché dopo la nascita del figlio è costretto a allontanarsi da casa, ancora per colpa della peste che torna a manifestarsi dal maggio del 1544. Viene chiamato nella città di Aix-en-Provence per soccorrere i malati. La città ormai è decimata dalla malattia, insomma immaginate questo scenario manzoniano. Lui trova una città piena di cadaveri abbandonati lungo le strade, con le botteghe devastate dai vandali, con la popolazione barricata in casa. Lui si è già trovato in questa situazione, si organizza rapidamente, apre un laboratorio con una squadra di aiutanti professionisti ben motivati. Io sono qui per scrivere quello che sta succedendo. Ogni città, ogni accampamento, ogni posto è stato avvelenato da questa pestilenza contagiosa. Quando una persona contrae la malattia, contagia tutta la famiglia. Quelli che si preparano a seppellire il morto faranno la stessa fine. Così la morte entra dalla finestra. Le città e i paesi sono devastati. I sopravvissuti piangono per i loro cari. Sono parole tratte dal documentario della BBC The Black Death, La morte nera. Danno un'idea di quello che Nostradamus sta vivendo. Il contagio ha raggiunto livelli drammatici. È difficile studiarne la natura e la diffusione. 270 giorni di lotta continua tra esperimenti, tentativi falliti, ma alla fine Michel troverà un rimedio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un medico, di un filosofo, di un matematico, di un astrologo, ma soprattutto di un incredibile profeta, la storia di Michel de Nostradamus, meglio conosciuto ovviamente come Nostradamus. Questa è una storia che continua a correre sul confine tra realtà e leggenda, tra la scienza e la credulità popolare. Nostradamus ha superato a fatica il trauma della morte della prima moglie e dei suoi figli e a metà del 500 si dedica alla ricerca di una cura per la terribile epidemia di peste. 9 mesi di esperimenti, di duro lavoro, e alla fine ce la fa. La soluzione è una semplice pillola da far sciogliere in bocca. E non sappiamo in realtà se questo sia stato effettivamente d'aiuto per debellare la peste. Obiettivamente, insomma, non è probabilissimo. Però sappiamo che in concomitanza dell'intervento di Nostradamus la peste si estingue. Quindi, che c'entri o no questa pillola miracolosa, la gente gli attribuisce il merito di aver interrotto questo flagello. Riceve onorificenze, un vitalizio, può tornare a Salon dove ha lasciato la famiglia, può riprendere la sua vita, è un uomo che ha vinto tutto, anche se poi in realtà la peste non scompare mai del tutto in quel secolo, la peste continua a essere fuoco sotto la cenere. Un anno dopo, per esempio, la malattia si ripresenta a Lione, Michel viene subito convocato, a Lione la situazione è diversa, ci sono grandi ospedali, c'è più efficienza. Nostradamus trova anche un altro dottore, si chiama Sazarin, è un suo concorrente, un uomo ambizioso, sta lavorando a una nuova cura, non vuole collaboratori, però intanto i mesi passano, i morti aumentano e così la gente chiede a gran voce l'intervento di Nostradamus, viene cacciato questo Sazarin che non è riuscito a trovare la cura e passa un mese e la peste sparisce anche a Lione, quindi per Nostradamus questo è un trionfo e quindi noi non sappiamo quanto questo trionfo sia dovuto alla fortuna, alla concomitanza degli eventi e quanto veramente alla sua bravura come medico, direi come immunologo, cosa improbabile in quel secolo. E naturalmente il grande successo, come sempre accade un po' nella natura dell'uomo, genera delle reazioni che non sono tutte positive, ci sono dei colleghi gelosi, invidiosi che cominciano a additarlo come un ciarlatano, come un bugiardo, peggio ancora come uno stregone. Questo spinge il nostro Nostradamus a ritirarsi definitivamente a vita privata e si chiude nella sua casa di Salon e comincia a mettere nero su bianco le visioni che lo stanno tormentando. E ci vorrà del tempo prima che queste scritture vengano rese pubbliche, perché molti lo stanno accusando di stregoneria e la stregoneria in quegli anni, insomma, è cosa seria, uno può veramente andarsi a mettere nei guai. Poi però ci sono degli episodi che lo convincono a rendere pubbliche queste profezie, perché Michel incontra Jean-Aimé de Chavigny, che è un uomo di legge, un uomo dotto, che diventa un grande amico di Michel, diventa un consulente, un sostenitore. Anche la Chiesa comincia a concedere il suo benestare nei confronti di queste profezie e in qualche modo questo gli conferisce una, come dire, un allure di natura religiosa, e contemporaneamente vengono smentite le maldicenze sul suo conto e si diffonde la voce che alcune profezie si siano già avverate. È una psicosi positiva che lo avvolge, aumenta naturalmente anche la curiosità nei suoi confronti. Alla fine del 1555 lui pubblica i suoi scritti, è un volume di 454 quartine che si chiama Centurie et Profezie, con in apertura una lettera al figlio. Figlio mio, benché io abbia assunto il nome di profeta, io non me ne voglio attribuire il titolo di così alta sublimità per il tempo presente, perché profeta è chiamato oggi colui che un tempo veniva chiamato veggente, poiché profeta in verità, figlio mio, è colui che vede cose lontane dalla naturale conoscenza di tutte le creature. Ho redatto per iscritto delle profezie che sono composte dettagliatamente in prosa, stabilendo i luoghi, i tempi ed il termine prefissato che gli uomini nati dopo conosceranno le vicende infallibilmente accadute, come abbiamo indicato per gli altri. Parlando più chiaramente, nonostante siano mascherate, saranno comprese le intelligenze, ma una buona volta si dovrà eliminare l'ignoranza e solo a quel punto l'avvenimento sarà schiarito. Lui fa questa dedica al figlio nel quale comincia a scrivere che le quartine non sono comprensibili da tutti, non sono comprensibili subito, è una scrittura criptica, enigmatica, che è incomprensibile, però è in grado di stimolare la fantasia dei lettori. Così questa fama dura nei secoli e molti studiosi si sono impegnati a decifrare i suoi scritti, che rimangono controversi. C'è chi li definisce esempi di chiaroveggenza retroattiva. Tra questi c'è Douglas Kibbe, che è un linguista, un professore all'Università dell'Illinois. Nostradamus scrive in un modo che è più quello che non viene detto che quello che viene detto. Così a posteriori ogni persona può interpretare le quartine come meglio crede. Nostradamus diventa ancora più famoso grazie a questo libro di profezie, grazie all'alone di mistero che circonda lui e quello che lui scrive. È una fama diversa da quella che aveva già raggiunto quando combatteva la peste. E la fama gli porta una richiesta inaspettata, perché il re di Francia Enrico II e la regina Caterina de' Medici vogliono incontrarlo perché sono incuriositi da quello che hanno sentito su di lui, anche perché alcune profezie di Nostradamus riguardano proprio il futuro del re e della Francia. Ecco una visione che Nostradamus ha trascritto, ricevuta da un tenue spirito di fuoco, da una voce proveniente dal limbo. Queste voci e visioni erano spesso frammentate e riguardavano fatti ed eventi che lo stesso Nostradamus non riusciva a capire, ma che ha comunque messo in versi, in quartine. E confusi come queste quartine sono molti di noi, che vedono chiaramente la realtà in una quartina come questa, per esempio. Il 35esimo del primo secolo è stato velocemente colto dalla suggestione che il re di Francia in carica, Enrico II, sarebbe morto in un torneo di giostre. Nostradamus fu subito convocato al cospetto del re per spiegare la quartina, e il re disse: «Questo è ridicolo, io non partecipo mai a questi tornei». Nostradamus poté solo rispondere che aveva scritto quello che aveva visto. Orson Welles riporta così il discorso alla corte di re Enrico. In realtà forse i due non parlano neanche di questa profezia, perché il loro discorso, diciamo, è concentrato sul futuro della Francia, sulle strategie militari da portare avanti e o su quelle invece da abbandonare. Michel fa notare che la riconquista dell'Italia, che è fortemente voluta dalla potenza francese, sarà una disfatta. Re Enrico ci crede, tentenna, ma si rende conto che non tentare questa impresa lo mostrerebbe ai suoi sudditi come un vigliacco, come un debole. Nostradamus è convinto che le sue profezie arrivino direttamente da Dio, che quindi accadranno in ogni caso. Diventa come Cassandra, vi ricordate, quella che disse: ragazzi, non fate entrare il cavallo a Troia perché c'è un trucco sotto. Non venne creduta, condannata a predire il futuro senza che nessuno la potesse credere. Comunque la regina Caterina incontra il nostro protagonista, gli chiede di fare l'oroscopo a tutti i membri della famiglia reale, ai figli. Nostradamus viene richiesto dai nobili, comincia a viaggiare da una parte all'altra di Parigi per accontentare tutti, ma il suo fisico non regge, forse soffre di gotta, ha bisogno di riposo. Viene ospitato, curato nel castello del re per un paio di mesi, poi torna a casa per dedicarsi alla scrittura. Ma nel frattempo arriva una notizia sconcertante: re Enrico è morto. Come è morto? È stato trafitto in un occhio dalla scheggia di una lancia usata durante una giostra, e quindi la profezia di Nostradamus si è avverata. Dopo questo incidente le profezie assumono un valore diverso, tra la gente si diffonde la paura, la religione protestante peraltro che sta avanzando non vede di buon occhio questo tipo di poteri, perché è una religione insomma un po' meno arcana di quella cattolica. C'è una certa chiusura nei confronti di Michel, le persone cominciano a stargli alla larga, forse qualcuno fa anche qualche scongiuro, viene etichettato come un vecchio stregone, e così gli ultimi anni di vita sono tristi perché sono segnati dalla malattia, dalla solitudine. Lui è arrabbiato, è deluso, e i suoi scritti cominciano a lasciar trapelare questo risentimento. Coloro che leggono questi versi, attenta riflessione vi apportino, profani e ignoranti dal toccarli si guardino, che astrologhi, stolti, incolti tutti non s'accostino. Colui che altrimenti farà, maledetto sarà secondo sacro rito. Dopo 7 anni dalla morte di Enrico II, Caterina, che è diventata molto potente, comincia a viaggiare per tutto il paese, diciamo, per fare conoscere ai sudditi il futuro re di Francia, che sarà Carlo IX. Quando questo corteo reale arriva a Salon, Caterina non perde occasione di far visita a Nostradamus, e il figlio, che nel frattempo è re Carlo, conferma a Michelle i titoli di medico, di consigliere di corte che gli erano già stati concessi dal padre, e i regnanti gli fanno dono di 200 scudi d'oro come ringraziamento per tutti i servigi svolti per la corona, e questo è un riconoscimento che forse lo placa, lo tranquillizza per i pochi mesi che gli rimangono da vivere, perché lui che ha predetto tutto non poteva azzeccare la data della sua morte, che è il 2 luglio del 1566, viene trovato riverso sulla sua scrivania, chinato sui libri. Le opere di Nostradamus gli sopravvivono e sono conosciute ancora oggi. Molti gli attribuiscono la capacità di aver predetto alcuni eventi cruciali della storia, la rivoluzione francese, la prima e la seconda guerra mondiale, addirittura l'attentato a Kennedy, l'attentato alle torri gemelle di New York, però le profezie sono sempre state comprese dopo, a fatti avvenuti. Se uno legge queste quartine scritte in quel linguaggio oscuro, che peraltro sono passate per mille traduzioni, non è in grado di fare una previsione sul futuro, anche perché le traduzioni a volte poi hanno portato a delle forzature postume. La vicenda di Nostradamus, comunque la si voglia interpretare, è una vicenda piena di colpi d'ala, di cadute, di drammi personali, di grandi rivincite, di risalite, di ripartenze, quindi una vita, diciamo, molto glam per essere una vita vissuta in quei secoli, in quel secolo. E quindi noi che raccontiamo proprio le grandi e controverse vite, ci siamo tuffati volentieri in questa avventura. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite, scrivete al Falco e il Gabbiano, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi nei miei, nei nostri social, sapete dove trovarci, vi faccio una profezia. Ci sentiamo lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Simone Mangialenti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Generation.